Io ringrazio anzitutto il professore Don Rosé di avermi invitato, ripetendo un caro incontro con la città di Trento, dove avevo già avuto occasione di parlare l'anno scorso in un'altra sede. E ringrazio anche vivamente il professor Cardini per l'ampia introduzione storica, nella quale ha collocato così bene nella sua statura la figura di Santa Caterina da Siena. Io vorrei dirvi anzitutto che mi voglio inserire nel programma generale di queste riunioni che con tanto frutto sono fatte nella vostra città, e cioè inserirmi in questo discorso sui vertici dell'umanesimo cristiano. Perché Caterina da Siena veramente appartiene alla tradizione dell'umanesimo cristiano e ne segna un vertice. L'umanesimo cristiano è quello che direi l'eterno umanesimo, quell'eterno umanesimo che prende le sue mosse da Eraclito, dal logos di Eraclito, quel logos ericlateo che si trovava, secondo lui che ne ha scritto, si trovava come logos eterno e trascendente, si trovava immanente nell'uomo come ragione e si trovava inoltre nel mondo che era veramente mondo, veramente cosmo, perché ordinato da una ragione. Quest'umanesimo è l'umanesimo della ragione, anzitutto. È l'umanesimo del logos. E questo umanesimo continua nella grande tradizione greca, continua ulteriormente nella tradizione romana e poi diventa umanesimo cristiano. Umanesimo cristiano nel quale ci sono tanti vertici, tante cime. E questo umanesimo cristiano è un umanesimo che segna, soprattutto nei grandi pensatori come Tommaso d'Aquino, segna una sintesi tra i valori della ragione e i valori della fede, tra quello che fu anche chiamato il cattolicesimo naturale e il cattolicesimo soprannaturale, per indicare con questa parola cattolicesimo l'universalità. Ebbene, questa tradizione di comunione piena fra la ragione e la fede si inserisce la figura di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena, che fu proclamata dottore della Chiesa. Chiunque si avvicini alla figura di Santa Caterina, mi pare che rimane subito colpito da questo fatto, che Caterina fu una mistica della contemplazione e insieme una mistica dell'azione. In quale senso? Nel senso, cioè, che essa contemplò il mistero di Dio in se stessa, ma inoltre Caterina riscontrò il mistero di Dio nella storia. Una visione mistica contemplativa, una visione mistica attiva, perché Dio opera nella storia e Caterina da Siena, questa grande umanista cristiana, contempla e insieme opera. In una sintesi che da trovarsi nel suo amore incandescente per Gesù Cristo, che è la via verso il Padre ed insieme è il centro e il polo della storia. Si potrebbe chiedere, di fronte a una questione che è frequentemente sollevata, a proposito di una spiritualità teocentrica e una spiritualità cristocentrica, quale sia stata la posizione di Santa Caterina da Siena. Bene, direi che Caterina da Siena ha una spiritualità che è insieme teocentrica e cristocentrica, la quale non c'è una scelta dell'una a diminuzione dell'altra. E questo perché? Perché la spiritualità teocentrica di cui abbiamo un inno stupendo alla fine del dialogo, il dialogo di Caterina, cioè una finalità, c'è un fine stupendo, quello che è il suo inno alla Santissima Trinità. Ebbene, questa spiritualità trinitaria si amplifica nella spiritualità cristocentrica, perché Cristo per Caterina è il Verbo incarnato. E quindi è colui che dà pienamente senso all'umanesimo cristiano, perché l'umanesimo cristiano non è soltanto l'umanesimo del Logos, è l'umanesimo del Logos incarnato. Caterina, Cristo è il Verbo incarnato, e in Cristo è la Deità, essa dice, che dà valore alla sua umanità. Quindi la congiunzione perfetta fra una visione teocentrica e una visione cristocentrica, in questo nesso per cui la Deità dà valore, efficacia alla umanità di Cristo. La spiritualità di Caterina da Siena è una spiritualità forte, per cui potrei dire che la virtù morale mediatrice fra la sua contemplazione e la sua azione nella storia è la fortezza. Quella fortezza che è una delle quattro virtù cardinali e che, elevata nella spiritualità cristiana, sostiene sino al martirio. Mediatrice, ripeto, fra la sua contemplazione e la sua azione nella storia, con una forza invincibile data dallo Spirito che affronta, se necessario, il martirio. La spiritualità di Caterina è una spiritualità, quindi, nella contemplazione di verità e d'amore, è insieme nell'azione di verità e d'amore, con fortezza fino al martirio. La verità è forte, diceva Tommaso d'Aquino in un punto della sua opera Contra Gentiles: veritas fortis est e nulla impugnazione convellitur. La verità è forte e non può essere sovvertita da nessun contrasto, da nessuna opposizione. Caterina, questa spirituale del Verbo incarnato, è la spiritualità della verità del Verbo, e insieme è la spiritualità della carità, perché, si noti bene, non bisogna mai cadere nell'errore che una spiritualità della verità sia una spiritualità intellettualistica, perché il Verbo in Dio non è un verbo qualsiasi, ma è un verbo che spira l'amore. È nel mistero trinitario, verbo che spira l'amore. Per cui la spiritualità della verità non è mai, ripeto, una spiritualità intellettualistica, quando sia bene intesa, ma è invece una spiritualità che porta insieme l'amore dell'oggetto che è veduto nella verità e l'amore di questa verità che bisogna portare nel mondo con quella fortezza di cui si parlava. Ma si noti bene che Caterina, in questa sua fortezza, che è dichiarata una fortezza virile, per usare un'espressione a cui Caterina continuamente ricorre, è insieme una spiritualità nella quale si sprigiona la sua femminilità. Caterina è veramente donna. Caterina è anzitutto la madre, quella che chiamava la bella brigata. È la terminologia che essa dà. Quella bella brigata di cui ci ha parlato il professor Cardini. In essa, essa è madre, nella pienezza dei suoi sentimenti umani e divini, in una sintesi in cui il divino eleva l'umano e il divino trova delle espressioni umane. Donna di eccezionale personalità, direi donna autonoma, come è stato ricordato, essa non fa parte di nessuna comunità di suore, ma è la mantellata, libera di se stessa, di piena libertà, salvo che di fronte a Dio e alla Chiesa che si intendeva servire. Un'autonoma la quale si muove e nella sua famiglia spirituale tutti sono suoi dolcissimi figli e figlio anche suo padre spirituale, il domenicano Beato Raimondo da Capua, cui essa scrive tante volte con questi termini: dilettissimo e carissimo padre e figliuolo in Cristo Gesù. Caterina è donna nel pieno senso della parola e spande la sua maternità verso i buoni e verso i cattivi. Ricordiamo alcune espressioni di quella lettera che Caterina scrive al Beato Raimondo sul suo incontro con Niccolò di Toldo. Qualunque sia il fatto in se stesso, le parole sono di Caterina. Niccolò di Toldo, chiamato Leo Ferocissimus et Desperatus nelle cronache del tempo, è visitato nel suo carcere, carico di una condanna a morte, da Caterina da Siena. E intendiamo questa femminilità forte, elevata nella spiritualità più sublime, con cui Caterina da Siena avvicina Niccolò di Toldo. Menailo a udire la messa e ricevette la santa comunione, la quale mai più aveva ricevuto. Il giovane sentì allora in Caterina, che era appena trentenne, la protezione e l'amore di una madre. Ed ecco le altre parole di Caterina: teneva il capo suo in sul petto mio. E allora sentiva uno giubilo e un odore del sangue suo, e non era senza l'odore del mio, il quale io desidero spandere per lo dolce sposo Gesù. E dissi io: giuso alle nozze, fratello mio dolce, che tosto sarai alla vita durabile. La bocca sua non diceva se non Gesù e Caterina. E così dicendo, ricevetti il capo nelle mani mie, fermando l'occhio nella divina bontà e dicendo: io voglio. Questa espressione "io voglio" è caratteristica di Caterina da Siena ed è frequentemente ripetuta da lei in tutte le circostanze. Ma era un "io voglio" che si identificava con la volontà di Dio. Caterina era talmente presa da questa sua spiritualità, che dicevamo teocentrica e cristocentrica, per cui si identificava, rimanendo creatura ben inteso, si identificava con Dio, si identificava col Cristo, e poteva dire questo "io voglio" dinanzi a pontefici, dinanzi a re, dinanzi al mistero della morte. Era questo momento un mistero di morte, e Caterina da Siena era così parte. Caterina si manifesta insieme nella sua femminilità come donna del suo popolo. C'ha una caratteristica particolare. Giulio Bertoni, un grande filologo, che fu per molti anni presidente dei gruppi cateriniani, scriveva che Caterina ha tinto al volto, con tutte le meraviglie delle sue asprezze e delle sue dolcezze, il suo linguaggio. Ecco espressioni di Caterina, come quando dice a proposito del Signore Gesù: lo sposo eterno mi fece una grande beffa. Ecco, questa femminilità popolare, della quale potremmo trovare tante, tante altre testimonianze, in questa sua forza del Dio voglio. Fu insomma la spiritualità di Caterina, la spiritualità di una donna che era annegata in Cristo, nel suo sangue, come essa stessa dirà, nella sua verità e nel suo amore, ma la sua comunione col Cristo rivela i tratti della sua personale e fortissima femminilità. Potremmo proprio vedere questa conservazione della personalità in una trascendente trasformazione nella persona del Cristo, in quelle parole che sono le parole di San Paolo, no? Vivo ego, iam non ego, vivi vero in me Christus. Vivo ego, cioè questa affermazione dell'io, per cui la spiritualità non distrugge la persona. L'elevazione in Dio in nessun modo viene a distruggere la personalità, ma infonde nella personalità un nuovo principio di vita. Vivo ego, iam non ego, vivo io ma non sono io che vivo. Cioè l'uomo nella sua personalità si trova insufficiente. Pensiero di Pascal, di fronte alla trascendenza. L'uomo oltrepassa se stesso, diceva Pascal. L'uomo oltrepassa se stesso in quanto l'uomo nelle sue aspirazioni oltrepassa l'uomo nelle sue possibilità. Questo uomo delle possibilità rimane, è purificato ed elevato da un'azione divina che lo prende nell'intimo. Vivo ego, iam non ego, vivi vero in me Cristo. Caterina da Siena è se stessa, donna forte, popolana, ma insieme è presa dalla virtù di Dio, vivo ego, iam non ego, vivi vero in me Cristo. E in queste dimensioni mi sembra che debba essere collocata la personalità spirituale di Santa Caterina da Siena. Ma è certo che questa spiritualità è una spiritualità che essa prende dal suo padre Domenico. In quella espressione con cui la spiritualità domenicana è stata espressa da Tommaso d'Aquino, contemplata agli stradare, dare agli altri le cose contemplate, il comunicare agli altri la propria spiritualità. Questa comunicazione della propria spiritualità era direi essenziale alla spiritualità stessa di Caterina. Non possiamo pensare a una spiritualità statica, chiusa in se stessa, ma è invece una spiritualità che si diffonde, una spiritualità che si comunica. Per cui tutta l'azione di Caterina da Siena ha da essere veduta e interpretata come una azione salvifica che nasce dal suo amore per la verità, per il Verbo incarnato, per la Chiesa. È questa sua spiritualità che nasce, vero? Ripeto, come già disse all'inizio, questo grande amore per Cristo, questo amore appassionato per Cristo, questo amore appassionato per la Chiesa, che genera in lei l'azione, genera in lei tutta la sua attività. Per cui fu santificato in se stessa e a sua volta santificò la storia. Certo, altre persone, altri santi, sono stati pari a Caterina nella contemplazione. Altri hanno potuto essere pari a Caterina nella loro azione storica. Ma nessuno forse come Caterina da Siena fu insieme quel grande contemplativo e quel grande operatore nella storia. Caterina unisce insieme queste due sue dimensioni spirituali, dimensione della contemplazione e la dimensione dell'azione, in una sintesi suprema. È stato ricordato l'azione di Caterina da Siena presso i vari principati, presso il re di Francia, Carlo di Durazzo. È stata ricordata questa azione di Caterina da Siena per portare la pace tra l'Inghilterra e la Francia. Questa missione di Caterina da Siena nasce da una visione che essa ebbe. Quando, appunto, vedendo entrare nel costato di Cristo il corpo fedele, quello infedele dell'umanità, le fu consegnato l'ulivo della pace. Caterina si vede consegnato l'ulivo della pace dal nostro Signore Gesù Cristo e comincia quindi questa sua grande missione che si estende in tutti i campi, nel campo ecclesiale come nel campo civile. Quest'azione, che è un'azione di grande fortezza, per la quale essa accusa anche coloro che avevano inteso di limitarla. Il Papa Urbano VI aveva dimostrato l'intenzione che Caterina, insieme all'altra Caterina, Caterina di Svezia, figlia di Santa Brigida, andasse a trovare la regina Giovanna di Napoli. Ma Raimondo da Capua, parlando col pontefice Urbano VI, lo intrattenne sopra il pericolo che queste due vergini, Caterina da Siena e Caterina da Svezia, avrebbero incontrato andando in quella corte così corrotta come era la corte di Giovanna di Napoli, sulla quale Petrarca ha avuto delle parole molto severe, dicendo pure che era come una sinagoga di Satana questa corte di Giovanna di Napoli. E poi il Papa ripensò alla cosa e decise che le due donne non fossero inviate, anche perché una certa difficoltà nasceva da Caterina di Svezia, perché ricordava il tempo in cui con la madre Santa Brigida e col suo fratello andò da Giovanna di Napoli e la regina Giovanna si comportò come seduttrice nei riguardi del suo fratello. Ma Caterina allora scrive una lettera al beato Raimondo e lo rimprovera: se Agnese e Margherita avessero pensato a tante cose, non avrebbero mai acquisito la corona del martirio. Non abbiamo forse noi uno sposo che ci può liberare dalle mani degli empi e conservare la nostra purità anche in mezzo a una trista, a una turba svergognata di uomini? Le vostre considerazioni, dice il suo padre spirituale, non valgono nulla. E quindi indirettamente diceva che anche le considerazioni di Urbano VI non valgono nulla e vi sono state suggerite non dalla prudenza ma dalla poca fede. E ricordiamo Caterina quando si trova in mezzo a Firenze alla rivoluzione dei Giombi, ricordiamola in tante altre circostanze. Caterina sente che bisogna agire perché la Santa Chiesa in tutta la vediamo rimasta sola, così è lo sposo suo. È necessario che gli amici della Chiesa con tanto amore e desiderio desiderino di dare la vita loro e innaffiare col sangue il giardino della Chiesa. E Caterina, verso la fine della vita, sentiva questa vocazione al martirio per la Chiesa e si esprimeva così: O Dio eterno, togli il cuore, dunque, e premilo sopra la faccia di questa sposa. Allora Dio eterno, bollendo l'occhio della clemenza sua, divellava il cuore e premeva nella Santa Chiesa. È una sublimità mistica questa della visione che Caterina ha. Desiderio di spremere il cuore fino all'ultima goccia di sangue per ripulire la faccia della Chiesa e vedere come l'Eterno Padre andava incontro a questo suo desiderio. E Beato Raimondo aveva avuto una missione, quella di recarsi in Francia per trattare là delle questioni concernenti il problema della lotta fra il Papa e l'Antipapa. Ma a un certo momento Raimondo De Capua ebbe una certa paura e Caterina allora gli scrive: «Non fusti ancor degno di stare sul campo della battaglia, ma come fanciullo ne fuste cacciato indietro, e voi volentieri ne fuggiste, e aveste grazia di allegrezza che Dio concesse alla vostra infermità. Cattivello, padre mio». Ecco quelle espressioni, potremmo dire, popolari, vero, cui mi riferivo. «Cattivello, padre mio, quando sarebbe stata beata l'anima vostra e la mia, che col sangue vostro voi aveste murata una pietra nella Santa Chiesa per amore del sangue. Veramente noi abbiamo materia di pianto, di vedere che la nostra poca virtù non ha meritato tanto bene». E così, con espressioni ugualmente forti, ancora il suo stesso confessore: «Guardate che io non vi vegga timido, né che l'ombra vostra vi faccia paura, ma siate virile combattitore». Altre volte ripete questa bella frase, e la ripete anche al Papa Gregorio XI: «Che l'ombra vostra non vi faccia paura». Esprimeva in questo modo, direi, proprio l'essenza di una paura che giungeva alle sue espressioni più brutte, più invalide: «Che l'ombra vostra non vi faccia paura». Questa fortezza Caterina da Siena esercitò la sua missione di pace. Ricordiamo, oltre a quello che è già stato detto con tanta precisione storica, ricordiamo, per non ripetere, qualche aspetto del ritorno di Gregorio XI in Italia e a Roma. Sappiamo come avesse abbandonato Roma nel 1304 il pontefice, non Gregorio XI, per rivoluzioni che venivano nella città di Roma. Egli, notiamo bene, aveva trasferito la sua presenza, ma non aveva trasferito la sede, perché la sede del Papa è sempre, ovunque egli si trova, è sempre Roma. Come successore di Pietro, egli è sulla cattedra di Roma. Non trasferì la sede, ma trasferì la sua persona, con tutti gli inconvenienti che sappiamo e che furono già ricordati. Caterina da Siena agì sul Papa. In tutti gli eventi della storia della Chiesa, credo che possiamo vedere concorrere due carismi: il carisma profetico e il carisma di governo. E che ogni fatto nella vita della Chiesa nasce da questi due carismi. Mai soltanto un carisma di profezia, che non si tradurrebbe in un'azione concreta, ma nemmeno mai un carisma di governo che non sia ispirato dalla profezia, cioè dalla visione della volontà di Dio. Questi due carismi possono essere uniti nella stessa persona. Ma in moltissimi casi della storia della Chiesa, per esempio nella storia di tutti gli ordini religiosi, sono distinti. È il carisma del fondatore, carisma profetico del fondatore, del carisma di governo della Chiesa, del Papa, che approva. Ebbene, anche qui abbiamo un incontro di due carismi, in Caterina e nel Pontefice. Caterina spinge il Pontefice a ritornare a Roma, Gregorio XI, Papa di origine francese, ma sarà Gregorio che decide. Però è certo che Gregorio era debole e che aveva molta difficoltà a prendere quella decisione. Caterina lo spinge. Notiamo bene che Gregorio XI poteva avere anche delle ragioni per temere questo suo ritorno a Roma. Le ragioni erano nelle opposizioni dei cardinali francesi. Le ragioni potevano essere nel timore di uno scisma che sarebbe avvenuto e che poi di fatto venne. Quindi si soffermava sopra delle ragioni che erano in parte delle ragioni temporali, in altra parte delle ragioni ecclesiali, e non si decideva. Fu Caterina che lo spinse a decidersi, lasciando a lui la decisione. Ma ricordiamo un episodio interessante dell'intervento di Santa Caterina in questa vicenda. Nel suo viaggio, Gregorio XI viene a Genova, il suo lungo viaggio, in parte in mare, in parte per via di terra. Viene a Genova e allora prende alloggio presso la casa di una dama genovese, Orietta Scotti, e lì si ferma e riprendono le sue indecisioni. Un giorno, poco dopo il suo arrivo, Caterina da Siena si trovava pure a Genova e vede venire da lei il Papa, che si era vestito con abiti puramente sacerdotali, abbandonando le insegne pontificie, viene da lei. E in questo dialogo Caterina lo riprende dai suoi timori, lo assicura con carisma profetico che la volontà di Dio è che egli ritorni a Roma. Ed è allora che il Papa riprende il suo viaggio e arriverà poi in Roma osannante 15 gennaio, 17 gennaio del 1377. Caterina di nuovo ha aiutato il Papa con la sua fortezza e con il suo carisma di profezia. Caterina certamente era in talune cose anche dura. Ricordiamo che cosa scrive proprio al Papa Gregorio XI per certe sue incertezze. Dio vi ha data l'autorità e voi l'avete presa. Dovete usare la virtù e potenza vostra. E non volendola usare, meglio sarebbe a rifiutare quello che è preso, più onore di Dio e salute dell'anima vostra. Cioè Caterina dice che dovete usare il potere, se non volete usarlo, meglio rinunciare. Nell'interpretazione di taluni si tratta puramente della rinunzia al potere temporale. Nell'interpretazione di molti altri si tratta invece di una rinunzia al papato stesso, se non sapete usare la vostra autorità. Meglio per voi, meglio per la Chiesa lasciarla. C'è un altro punto di Caterina da Siena in cui espressamente parla della rinuncia anche ai beni temporali per i beni spirituali. Potremmo quasi vedere qui come un preannunzio e un invito di quello che sarebbe poi successo cinque secoli dopo, con l'abbandono dello stato temporale da parte del Papa. E ancora, mettete mano, elevate la puzza dei ministri della Santa Chiesa, traete nei fiori puzzolenti, piantate invece fiori odoriferi, uomini virtuosi che temono Dio. Ecco la grande riforma spirituale che intende Caterina debba farsi nella Chiesa: togliere i fiori puzzolenti e piantare i fiori odoriferi. Della fortezza di Caterina si potrebbero citare tanti altri suoi incontri. Io voglio soffermarmi, sarebbe, non so, le sue lettere a Bernabò Visconti, per esempio, il terribile e tremendo principe in Milano. Voglio qui soffermarmi a ricordare invece quella che fu una parte importante di tutto l'epistolario cateriniano, e cioè le lettere che ha scritto dopo lo scisma. Sapete, Papa Gregorio XI rientra a Roma, dicevo, il 17 gennaio del 1377 e muore il mese di marzo del 1378, circa 12 mesi dopo, e poi l'8 aprile del 1378 viene eletto l'arcivescovo di Bari, Bartolomeo di Prignano. Questa elezione, come già fu ricordata, fu molto dibattuta, il popolo anche rinsorto, no? Quel famoso grido romano lo volemo o al manco italiano, che non si eleggesse più, vero, un cardinale francese, ma che si eleggesse invece un italiano. E fu eletto in italiano uno che non era ancora cardinale, era l'arcivescovo di Bari, Bartolomeo di Prignano. Bartolomeo di Prignano, certo, fu di carattere non facile, di carattere iroso, e Santa Caterina anzi ha occasione di riprenderlo per questo suo carattere quando dice di dare un botto, adesso risparmi il lungo testo, di dare un botto alla sua natura, di dare un colpo, una botta, no? Alla sua natura, che era una natura irosa, che era una natura anche in certi casi fu gravemente vendicativa, insomma mise parecchie persone a morte, vero? E certo non sempre vero con pieno diritto. Bene, comunque il Papa Urbano, che era stato eletto, era il vero Papa, Urbano VI. Poco tempo dopo, l'elezione in aprile, allora il 20 settembre dello stesso anno 1978, si radunano a Fondi pochi cardinali francesi ed eleggono Roberto di Ginevra, come è stato ricordato. Roberto di Ginevra, che era stato anche comandante delle truppe, aveva fatto anche delle cose, vero, piuttosto sanguinarie, per esempio nella città di Cesena, dove pare che molte migliaia di persone fossero state uccise dalle truppe che Roberto aveva assoldato, con i famosi capitani di Ventura che furono ricordati. Ecco, viene lo scisma in questa data, il 20 settembre 1780. Qui allora, 1380, qui comincia una grande opera di Caterina da Siena. Una grossa parte dell'epistolario, che comprende più di 350 lettere, è dedicato ai problemi dello scisma, è dedicato in scritti che vengono inviati ai re, ai principi, ai capitani delle varie città, ai reggitori delle varie città, perché prendano parte per il Papa legittimo Urbano VI e abbandonino l'antipapa. Certo è vero, come è stato ricordato, che una parte della cristianità seguiva il Papa chiamato Clemente VII, lo seguiva, vero, ritenendolo vero pontefice. Caterina era certissima che l'elezione fosse stata valida da parte per Urbano VI. E ricorda i cardinali: voi siete andati a rendergli omaggio a Urbano VI, quindi l'avete riconosciuto, e ora invece, vero, vi portate a eleggere un nuovo Papa, voi l'avete riconosciuto, è per i vostri interessi. Certamente la prosa di Caterina, che adesso non posso leggere, è di ben altro peso, è di ben altro valore, vedeva che era per i loro interessi che essi avevano eletto, vero, un nuovo Papa. Del resto la storia della Chiesa e l'elenco dei pontefici, vero? La ragione Caterina da Siena, nel senso che Urbano VI è il vero Papa. Certo, grave problema teologico quello di vedere come altri avessero potuto compiere questo errore, come in coscienza fossero anche convalidati da un'opinione, appunto un santo domenicano come San Vincenzo Ferreri, che era in Spagna, lo teneva, che fu molto in Italia, lo teneva per l'antipapa. Grave questione teologica, però nell'ordine vero dei papi della Chiesa c'è Urbano VI, non c'è Clemente VII, tanto è vero che il nome di Clemente VII fu poi ripreso, come sapete, da un altro pontefice. Ebbene, da questa corte, vero, all'Argino Giovanni, specialmente ci sono 7 lettere che sono fra le più importanti dell'epistolario, in cui Caterina si rivolge alla regina Giovanna, la chiama anche madre, ma in certi momenti, vero, la accusa per la sua infedeltà nella... Oh, dica. Ah, grazie. Ah, forse non si sentiva già prima. Accusa Giovanna di Napoli, voglio qui ricordare le parole precise del Petrarca, vero, a proposito di quella corte, che era una Mecca, una Babele, dove Cristo si insulta, dove non è né giustizia. Napoli aveva fatto uccidere il suo primo marito, era poi passata ad avere 3 altri mariti e poi infine ebbe una fine molto tragica, perché fu poi uccisa a sua volta da Carlo di Durazzo. A questa regina scriveva Caterina da Siena con delle espressioni che erano in certo momento di dolcezza e di grande maternità, e in altri momenti, vero, scriveva appunto con una severità estrema. Io ho raccolto in un mio commento queste 7 lettere scritte appunto alla regina Giovanna di Napoli, e ripeto, risentono questo duplice momento della maternità di Caterina da Siena e poi dei forti richiami, perché non teneva fede alla sua parola. La richiama e dice: ma non è da regina non tenere fede alla propria parola, perché essa era passata da un momento di obbedienza a Papa Urbano VI ad un altro momento in cui era invece passata alla obbedienza dell'altro pontefice, Clemente VII. Lascio altre cose e voglio qui ricordare allora, per la sua azione civile, alcune espressioni che sarebbero, direi, di etica politica di Caterina da Siena. C'è stata del resto una grande tradizione in questo senso, nell'ordine cui Caterina apparteneva come terziaria. Pensiamo a quanto Tommaso d'Aquino ha scritto nella Summa Teologica, vero, sopra i problemi del governo civile, pensiamo a Savonarola che scrive sopra il reggimento civile, pensiamo a un Bartolomeo Las Casas, a quello che ha fatto per gli indiani, così si chiamavano, vero, in occasione dell'occupazione spagnola e contro tutto quello che invece di obbrobrioso veniva fatto dagli occupanti. Pensiamo a un Francesco de Vittoria, che fu il fondatore del diritto internazionale, che è stata una grande tradizione, vero, di etica politica e di studi politici nell'ordine a cui Caterina apparteneva. Ed ecco alcune sue espressioni che noi troviamo in lettere di Caterina da Siena. Per esempio, ai signori difensori della città di Siena: carissimi fratelli e signori temporali in Cristo dolce Gesù, io Caterina, serva e schiava dei servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo, con desiderio di vedervi uomini virili e non timorosi, governatori della città propria e della città prestata. Questa espressione città prestata ricorre frequentemente nella lettera di Caterina. Il governo della città è un governo prestato, ed è prestato da Dio, perché colui che governa deve governare come uno che è incaricato da Dio, quindi con tutte le responsabilità, non con i pretesi diritti di dire io sono stato incoronato da Dio e faccio quel che voglio. No, nel senso invece di tutti i doveri che appartengono a questa missione che hanno ricevuto in una signoria prestata, perché ricorderà Caterina da Siena, anche re di Francia, Carlo V, ricordati bene che questa signoria ti è prestata per un certo tempo e poi morirai. Quindi prestata in se stessa e prestata nel tempo. La città propria è la città dell'anima vostra. Signoria prestata sono le signorie delle città o altre signorie temporali, le quali sono prestate a tempo, secondo che piace la divina bontà e secondo i modi e i costumi dei paesi. E poi ricorda quel timore disordinato che hanno talvolta quelli che governano. O timore disordinato, tu lasci il timore, tu sei nel timore per l'iniquo e condanni il giusto. Questo è quel perverso timore e amore che uccide Cristo, però che temendo Pilato di non perdere la signoria, accettò e non conobbe la verità e per questo uccise Cristo. E più in là, e a me pare che tutto il mondo sia pieno di questi Pilati. Oh, credo che l'espressione che anche oggi potrebbe essere usata. Il mondo è pieno di questi Pilati. Levate via la colpa e sarà tolto via il timore e avrete cuore vigoroso e non avrete paura dell'ombra vostra. Quell'espressione che già avevo ricordato e che dicevo che ricorre frequentemente nell'epistolario cateriniano. E così in altre lettere sempre insiste sopra questo concetto e l'esigenza di mantenere la vera giustizia. E voglio ora giungere al termine di questa mia esposizione. E appunto farvi anch'io questo interrogativo sopra l'efficacia politica direi dell'azione di Caterina da Siena. Pare certo che Caterina, e c'è una denuncia anche in una sua lettera, quando andò ad Avignone per cercare di indurre il Papa alla pace con Firenze, sia stata in un certo modo anche giocata dai reggitori di Firenze, perché gli era stato dato l'incarico di andare a trattare la pace con il Papa. Incarichi di questo genere Caterina aveva avuto anche dal Papa verso altri principi, verso la regina Giovanna, come vi dicevo. Poi era stata inviata dal Papa a Firenze. Ecco, quindi c'erano questi incarichi diplomatici, incarichi politici, che Caterina riceveva. Certo fu forse giocata dai reggitori di Firenze in questa sua impresa verso Firenze, verso il Papa. D'altra parte i reggitori di Firenze poi la richiamarono di nuovo per trattare la pace con il Papa. Insomma, la sua azione politica certamente ha avuto delle difficoltà. Però non dimentichiamo nemmeno il fatto che i principi stessi scrivevano a Caterina. Per esempio abbiamo testimonianza certa di due lettere, perché sono testimonianze che c'è in Caterina da Siena, di due lettere che la regina Giovanna scrisse a Caterina. Non soltanto essa scrisse 7 lettere, ma ne ricevette 2 di cui non abbiamo notizie e che sono invece ricordate nell'epistolario cateriniano. Quindi ebbe dei successi sulle persone, direi. Ebbe dei successi in quel senso che direi di etica politica, di spiritualità politica nel richiamare la gente. Ma soprattutto potremmo dire, mi sembra, che il successo, allora qui successo spirituale, come deve essere ben ricordato, il successo spirituale di Caterina da Siena è nei secoli. Il successo spirituale di Caterina da Siena è in questi 5 secoli che hanno seguito la data della sua morte. Il successo di Caterina è in tutti questi discepoli che Caterina da Siena ha avuto e ha tuttora nel mondo. Quale ispirazione porta Caterina a tante tante anime di diversa cultura, di altissima cultura oppure di più bassa cultura? Caterina continua questa sua grande opera nella storia. E direi che il maggiore riconoscimento di questa opera nella storia fu dato proprio in questi ultimi anni, quando Paolo VI dichiarò Caterina da Siena dottore universale della Chiesa. E in questo senso consegnò il Papa una missione a Caterina, la missione del dottore universale della Chiesa. E sapete che soltanto due donne sono dottore universale della Chiesa, Santa Teresa d'Avila e Santa Caterina da Siena. Ecco, ripeto, il Papa le consegnò una missione e questa missione continua e continuerà nella storia. È colei che è maestra e madre, colei che fu martire nella sua volontà, che fu profeta. E di questi valori l'umanità ha bisogno. Ha bisogno della profezia di Caterina, ha bisogno di quella fortezza che regge lo spirito umano anche di fronte alla morte, ha bisogno del magistero di Caterina, ha bisogno di questa sua dolce maternità, di questa sua femminilità che virilmente deve continuare a operare nella storia. Grazie. Padre di Rovasenda, di questa lezione così illuminante. Confesso che quando egli mi comunicò il titolo di questa relazione, La spiritualità virile di Santa Caterina, mi sono chiesto in cuor mio veramente che cosa volesse dire propriamente. Però perché l'immagine della Santa nella sua femminilità così schietta, certamente noi la sentiamo e la apprezziamo al massimo. Ecco, oggi ho capito veramente che una donna è una donna di questo genere, diventasse la predicatrice profetica agli uomini del coraggio, e dico anche proprio del coraggio civile, dottore del coraggio civile, possiamo dire, al piano non teologico ma umanistico, se vogliamo, valido per tutti. Mi pare che in questo il messaggio è veramente notevole. Ecco, con questo ringrazio tutti della cortese presenza e riconvoco di cuore, pregando a tutti il dono della perseveranza finale per la riunione pomeridiana alle 3, per la lezione del professor Cremascoli, che è già tra noi e che saluto cordialmente. Con la discussione che ne seguirà, credo ci siamo resi conto tutti quante cose qui ci sono che meritano di essere un po' colloquiate, discusse, conversate insieme, vero, per anche solo per afferrarle meglio. Grazie e arrivederci. Grazie a lei.